si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Saremo insieme fino alle 10 tra pochissimo con Si può fare, un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa fino ad arrivare al giornale radio delle 8. Un breve sommario di quello che accadrà. Cominceremo con l'approfondire la prima buona notizia di questa settimana, l'accordo raggiunto anche con i sindacati per quanto riguarda il rilancio delle acciaierie di Piombino con gli algerini di Cevital. Sembrava quasi che questo accordo lanciato in pompa magna qualche mese fa stesse per sfumare, e invece sembra proprio che sono stati convinti anche i sindacati, e ci siamo, ne parleremo con Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL. E poi andremo ad Anacapri, dove in questa piccola cittadina si è votato per dire no alle slot machine. C'è stato un referendum, vedremo adesso quali saranno le conseguenze. Poi avremo in studio con noi nella ora dalle 9 alle 10 Bruno Risas, il cantautore, quindi anche un po' di musica con il suo spettacolo su come sta cambiando l'Italia. E poi chiuderemo con lo chef, anzi meglio l'oste, Giorgione Barchiesi, chef del Gambero Rosso, però in questa veste come testimonial della festa di Cittadinanza Attiva, Spoleto, Spreco, K.O., come mettere K.O. lo spreco, ci insegnerà insomma come cucinare con gli avanzi del giorno prima. E anzi, ve lo dico subito, voi tirate fuori le vostre ricette per mettere K.O. lo spreco, perché metteremo in palio un bel premio oggi su chi ci darà la soluzione più originale. Questo però quando apriremo il numero verde dopo il giornale radio delle 8 con i vostri interventi in diretta. Adesso invece andiamo sul giornale di oggi, vai! Perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. Se però volete cominciare a interagire fin da subito con noi in tempo reale, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio personale chiocciola Ale Maurizi. Allora, dicevamo dei giornali, insomma, o quasi ovunque titoli principali dedicati a le nuove indagini di Mafia Capitale, con intercettazioni particolari, tariffari di quanto questi politici mangiavano sopra l'affare degli immigrati. E insomma, adesso non resta davvero che chiedersi, abbiamo parlato per mesi degli scafisti, dei trafficanti. La domanda che io mi faccio a questo punto è: chi fa più schifo, i trafficanti di clandestini, di immigranti che si fanno pagare facendo rischiare la vita anche a queste persone per portarle da noi, oppure questi uomini e donne, ma più spesso uomini in giacca e cravatta, i colletti bianchi, i politici che delle commissioni ministeriali o della capitale a Roma, che prendevano le tangenti, insomma, e lucravano sul vite dei migranti? Punto di domanda. E va bene, lo scopriremo forse vedendo alcuni particolari che ci sono sui giornali. Poi naturalmente la vendita del Milan, di una parte del Milan, a Mr. B, il broker thailandese. E per esempio sul Corriere anche un'intervista, niente po' di meno che al presidente russo Vladimir Putin, in prima pagina. Ed è un bel modo per iniziare questa rassegna stampa. Adesso leggeremo qualcosa di questa interessante intervista a presidente Putin da parte del Corriere, che però come titolo principale a Roma la grande spartizione, così i politici di destra e di sinistra orientavano gli appalti e si dividevano le tangenti. Vediamo, Fiorella Sarzanini scrive: accordi tra schieramenti politici opposti per modificare le commissioni aggiudicatrici e spartirsi la torta degli appalti. Era questo uno dei sistemi, forse il principale, utilizzati al Campidoglio, ma anche alla Regione Lazio e anche al Viminale, cioè al Ministero dell'Interno, per accaparrarsi gli affari milionari legati alla gestione dei centri di accoglienza per i migranti, ma anche di altre commesse pubbliche come quella per esempio del RECUP, che è il centro unico di prenotazione della Pisana, la sede della regione Lazio a Roma. Intercettazioni, giusto per capire di cosa stiamo parlando, e in questo caso anche di quanto fosse veramente trasversale, destra e sinistra, questo sistema, passando per il centro naturalmente, di, insomma, di spartizione di tangenti e di appalti. A parlare sono Emilio Gammuto, 61 anni, già in carcere, accusato di corruzione, parla con un pregiudicato calabrese, Giovanni Campennì, e con uno sconosciuto. E dicono: ma è sempre così, non c'è un cacchio da fare. Mi ricordo pure con la sinistra, quando c'era prima di Alemanno, guarda, poi dice un altro, però peggio, secondo me Rutelli era. Beh, Rutelli per noi no, per noi abbiamo cominciato a crescere con lui, perché con il fatto che ci fu il giubileo nell'anno del 2000 c'era una marea di soldi a disposizione, un fiume di denaro. E poi l'altro che dice: se era oggi, per come siamo messi, ramificati con le conoscenze, lavoravamo quell'anno e stavamo bene per altri 5, perché lì proprio erano proprio tanti i soldi. Poi diciamo, con Veltroni siamo andati bene noi, sì. E prosegue: poi ti dirò, con Alemanno, sotto certi aspetti, se pia molto di più. Cioè Alemanno, Rutelli, Veltroni, non ce n'era per nessuno. Questi erano sempre lì e facevano i loro affari. Per esempio, che affari facevano? Repubblica, cioè il tariffario delle mazzette. Dall'1 al 10% il tariffario di Buzzi e Company. Quanto ti do? Dipende, io ci devo guadagnare, e anche questa è un'intercettazione. Per esempio, Luca Gramazio, ex capogruppo, credo, di Forza Italia in consiglio comunale a Roma, coinvolto nella questione centro di prenotazione per assistenza sanitaria, 90 milioni di euro, 98 mila euro di tangente, piste ciclabili 1 milione di euro, 15 mila di tangente, verde pubblico 30.000 euro, anche qui qualche spicciolo di tangente, e poi 10 assunzioni per la sua cordata. Poi c'è Daniele Ozimo, ex assessore alla Giunta Marino, quindi qua siamo sull'altro versante, il centro-sinistra. Appalti sull'emergenza abitativa 7 milioni e 180.000 euro. Lui ci ha guadagnato uno stipendio mensile che per i magistrati non è quantificabile, più un'assunzione, più 20.000 euro di contributi elettorali. Luca Odevine, della commissione del Ministero dell'Interno sulla gestione dei migranti, è arrivato a 20.000 euro al mese per 3 anni, 240.000 euro l'anno, oltre a tutti gli stipendi nei ruoli, diciamo, ben pagati che queste persone avevano. Ed è questa la questione veramente terrificante, perché questa è gente che già straguadagnava dei buoni stipendi pagati dai contribuenti per il loro lavoro, e questo Devine si metteva in tasca 20.000 euro al mese in più, e lo ha fatto per 3 anni, ed è coinvolto per esempio nell'assegnazione dell'appalto dal centro di accoglienza e dei richiedenti diritto d'asilo di Mineo 2011-2012, 96 milioni di euro l'affare complessivo. Va bene, dicevamo però, già, insomma, altri particolari ci sono su altri giornali, vediamo, insomma, altri titoli. Il Fatto Quotidiano, l'uomo di Alfano, Gianni Letta e Comunione e Liberazione nel business dei profughi. Luca Odevine, intercettato, racconta tutti gli affari loschi legati al CARA di Mineo, indagato il sottosegretario Castiglione del nuovo centrodestra. Renzi però fa il garantista e se lo tiene. Questa è la linea ufficiale del PD, che al momento non chiede nessun passo indietro al sottosegretario indagato. Libero scrive: mafia capitale al governo, lo scandalo si allarga, business degli immigrati, indagato il sottosegretario Castiglione, il ministro Galletti e Cantone lo scaricano, persino Buzzi e Company sbalorditi dalla mancanza di moralità dei consiglieri romani, ma il prefetto non commissaria. Ancora altri titoli, magari vediamo tra un attimo cosa ci abbiamo sotto mano. La Stampa, mafia capitale, l'inchiesta ora tocca anche il governo. Dicevamo però dell'intervista, cambiando per un attimo argomento, dell'interessante intervista al presidente russo Vladimir Putin da parte del Corriere, il direttore del Corriere della Sera in persona. Il titolo in prima pagina è: non sono un aggressore, patto con l'Europa. Interessante, perché Putin intanto risponde alla domanda, dice: lei è un leader molto popolare in Russia, ma spesso all'estero viene accusato di essere autoritario. E sentite la risposta di Putin: alla domanda perché è difficile in Russia fare opposizione. Che c'è di difficile? Se l'opposizione prova che può risolvere i problemi di una regione oppure del paese, penso che la gente lo vedrà sempre. Penso, dice Putin, perché infatti la domanda successiva è: ma perché i principali canali russi televisivi non fanno mai interviste ai rappresentanti dell'opposizione? Risposta lapidaria di Putin: se sapranno attirare l'interesse, penso, anche qui, che saranno intervistati di più. Cioè, se è una questione di interesse, se evidentemente l'opposizione non è interessante per i canali televisivi russi, secondo Putin, che dice: se saranno più in grado di attirare l'interesse, penso che saranno intervistati di più. Insomma, c'è un piccolo problemino di democrazia in Russia, sicuramente. Forse non è l'unico posto al mondo, magari ci sono altri problemi di democrazia in altri punti del pianeta, ma insomma, certo, la Russia è tra quelli. E Putin risponde così. È interessante però un altro passaggio, invece questa volta diciamo a favore della Russia, perché sulla presunta aggressività della Russia sullo scacchiere internazionale per quanto riguarda i paesi ex baltici, la Polonia, ma anche l'Ucraina, eccetera, risponde Putin: la Russia non parla in tono conflittuale con nessuno, e in queste questioni, come diceva Otto von Bismarck, non sono importanti i discorsi ma il potenziale. Cosa dicono i potenziali reali? Le spese militari degli Stati Uniti sono superiori alle spese militari di tutti i paesi del mondo messi insieme. È vero, quelle della NATO sono 10 volte superiori a quelle della Federazione Russa. La Russia praticamente non ha più basi militari all'estero. Questi sono dati. La nostra politica non ha un carattere globale offensivo aggressivo. Pubblicate sul vostro giornale la mappa del mondo indicando tutte le basi militari americane e vedrete la differenza. E qua fa un esempio: vicino alle coste della Norvegia ci sono i sommergibili americani in servizio permanente. Il tempo che ci mette un missile americano a raggiungere Mosca da questi sottomarini è di 17 minuti. E volete dire che noi ci comportiamo in modo aggressivo? Come dargli torto? Ci fermiamo per il traffico tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e di nuovo a dare un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi. Abbiamo parlato abbastanza delle notizie circa l'inchiesta Mafia Capitale. Il Messaggero, per esempio, ricapitola il secondo capitolo dell'inchiesta: 65 indagati, 44 arresti, 19 in carcere, 25 sono finiti ai domiciliari. Le accuse sono associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, false fatturazioni, turbativa d'asta e corruzione. Le figure chiave della cupola romana restano Massimo Carminati, ex NAR e Banda della Magliana, capo dell'organizzazione, Salvatore Buzzi, riferimento di una rete di cooperative che si sono assicurate appalti e finanziamenti della Regione Lazio e del Comune di Roma, e Luca Gramazio, consigliere comunale e regionale, il principale riferimento politico della organizzazione. Era l'ex capogruppo, credo, di Forza Italia in consiglio comunale, ma ci sono esponenti politici anche del PD e del centrosinistra. Adesso però andiamo velocemente, prima di chiudere, sugli altri giornali per delle altre notizie. Per esempio il Sole 24 Ore, a proposito dello stallo sulla Grecia che affonda le borse europee. Ieri chiusure negative, Atene addirittura meno 5%, ma anche Piazza Affari meno 2%, negative a tutta Europa. Tsipras, accordo vicino ma i creditori ritirino le proposte assurde. Insomma, tira ancora un'aria negativa. Scrive Vittorio D'Arolde: è opportuno che i creditori della Grecia ritirino le proposte assurde, irrazionali e irrealistiche presentate al vertice di Bruxelles mercoledì scorso. Con queste dure parole il primo ministro ellenico Tsipras ha rispedito al mittente il piano di riforme della Troica in cambio dei prestiti congelati ad agosto scorso. È l'ennesimo stop di questa eterna trattativa. La Gazzetta dello Sport a tutta pagina con Podemos e la foto dei giocatori della Juventus che lanceranno questa sera l'assalto alla Champions League a Berlino contro il Barcellona. Sono i favoriti, hanno detto ieri Buffon e Allegri, ma possiamo farcela. E quindi stasera grande evento sportivo in TV, ma il titolo in alto è dedicato al Milan, che cede il 48% a Mister B. Berlusconi incassa 500 milioni di euro e per ora, scrive la Gazzetta tra parentesi, resta presidente. Ieri le brevi parole che ha detto all'auto mentre entrava o usciva da Arcore, non ricordo, dopo aver parlato con Mister B, Berlusconi non, insomma, era abbastanza come dire, cauto nelle dichiarazioni. Sì, restiamo noi, l'importante, ho detto che venderò potrei vendere tutto tranne che Arcore e il Milan, restiamo noi, la mia famiglia, eccetera eccetera, però intanto il dado è tratto, il 48% va a Mister B. Si tratterà di vedere se questo broker thailandese si accontenterà di una apparente minoranza oppure se ci saranno dei giochi di scatole finanziarie per cui in realtà non sarà esattamente così. Torno sul Corriere per un'altra notizia curiosa, che è la presa di posizione di ieri del presidente Mattarella all'Expo, che ha detto: il cibo in scadenza dobbiamo darlo a chi ne ha bisogno. Come non essere d'accordo con lui? Naturalmente la frase che ha detto è: estendiamo, anche valutando come intervenire con strumenti legislativi di sostegno, i progetti di solidarietà che già ci sono e stanno dando risultati positivi, cioè dare il cibo in scadenza dei ristoranti e degli centri di distribuzione a chi ne ha bisogno. La cosa interessante da chiedersi, visto che noi di Si può fare ce ne siamo occupati molto di questa cosa qua, è se Mattarella non sa che in Italia c'è già una legge abbastanza all'avanguardia in questo campo, che è la legge del buon samaritano, che addirittura è stata presa ad esempio recentemente in Francia, che sta approvando sì una legge ancora più all'avanguardia in cui lo spreco diventerà un reato, questo in Francia. Se Mattarella non conosce questa legge e quindi immagina che ci sia bisogno di una legge che invece esiste già, oppure se pensa a una legge ancora più all'avanguardia di quella che attualmente c'è in Italia, con le associazioni del volontariato che dicono: attenzione, perché se fate una legge poi rischia di aggravarsi il lavoro dei volontari, che questa cosa la fanno già, di distribuire il cibo nelle mense dei poveri, però lo fanno praticamente quasi a spese loro, quindi magari una legge sì, ma magari anche finanziata dal governo una buona volta. Adesso, prima di chiudere velocemente, ce l'abbiamo una buona notizia, vai! Insomma, buona notizia è questa, andiamo al sodo. L'accordo, l'ho già detto, raggiunto alla acciaieria di Piombino con gli algerini della Cevital e i sindacati, CGIL, CISL, UIL e i metalmeccanici, per insomma trovare un'intesa sui contratti di lavoro per chi lavorerà in queste acciaierie. È importante il rilancio, ne parleremo con il segretario della FIM CISL Bentivogli dopo il giornale radio. A dopo. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, eccoci qua, oggi Carlo non è con noi, è stato convocato dagli organizzatori del Gay Pride di Benevento, ne parleremo tra poco proprio con il nostro Carlo Gabardini. Adesso invece iniziamo, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta è sempre quello, tra poco cominceremo i nostri approfondimenti partendo da una buona notizia di questa settimana, con sullo sfondo i dati sulla ripresa che è iniziata, lo dice anche l'OCSE in Italia, lo dice anche l'Istat per quanto riguarda insomma i dati sui nuovi occupati, ma noi abbiamo la buona notizia nella buona notizia: l'accordo tra la proprietà algerina Cevital, la nuova proprietà algerina degli acciaierie di Piombino, e i sindacati metalmeccanici GL, CISL e UIL per il futuro dei 2200 lavoratori di quegli stabilimenti. Sembrava quasi che stesse per sfumare questa intesa è stata annunciata dal governo, da Renzi, dal presidente Rossi, da Toscana, eccetera, proprio per una mancanza di accordo con i sindacati. Invece l'accordo c'è, ne parleremo tra poco. Vi voglio dare anche un aggiornamento. Vi ricordate che settimana scorsa abbiamo parlato del progetto Vento, cioè di realizzare una pista ciclabile lungo il Po da Venezia a Torino, da cui il nome di questo progetto del Politecnico di Milano, 679 chilometri, in grado di attirare tutto il turismo dei cicloamatori, sarebbe una delle piste ciclabili più lunghe d'Europa, la più lunga sicuramente d'Italia. Ebbene, proprio nei giorni in cui c'è un gruppo di pedalatori che arriverà domani a Torino proprio per sostenere questa iniziativa, il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio ha incontrato dai rappresentanti di questo progetto e ha detto sì, si farà. Il governo ci mette del suo, ci metterà quindi dei finanziamenti, un'infrastruttura vera e propria che insomma, dovrebbe essere in grado di attirare anche il turismo e così di rilanciare anche un'attività economica come quella del turismo dei cicloamatori. Una bella notizia, ne avevamo parlato, volevamo darvi questo aggiornamento. 800 24 00 24. Poi naturalmente oggi come ogni sabato e domenica giochiamo con voi cari ascoltatori. Allora, una piccola premessa. Oggi e domani, ieri, oggi e domani a Spoleto c'è SpreKO, la festa di cittadinanza attiva di cui Radio 24 è partner, la seguiamo insomma da qua. vi aggiorneremo su quelle che sono le iniziative per mettere KO lo spreco, insomma lotta allo spreco su tutti i fronti. Ieri ha detto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, bisogna dare a chi ne ha bisogno il cibo avanzato, non ne possiamo più di questi sprechi. Allora, insomma, in chiusura di programma sentiremo Chef Giorgione, anzi lui preferisce farsi chiamare Oste proprio per la sua attitudine pragmatica all'arte culinaria, che ci darà dei suggerimenti su come cucinare con le cose del giorno prima. Però voi ascoltatori dovete mandarci la vostra ricetta per mettere KO lo spreco, non solo in cucina, ma anche, non so, avete mai per esempio cucinato sfruttando il calore della lavastoviglie? Perché anche questo si può fare, no? Si può fare. Se l'avete fatto, chiamateci, raccontateci. Avete mai visto un autobus con l'orto sul tetto? Perché questa sembra l'ultima tendenza in fatto di sostenibilità. Si sfrutta la luce e l'acqua piovana e ci sono gli autobus che vanno girando con l'orto sul tetto. E succede anche questo. Oppure anche voi avete fatto dei cuscinetti sfruttando le magliette usate dei vostri ex fidanzati. Chiamateci 800 24 00 24. La ricetta più bella e più originale vince un premio meraviglioso oggi, perché abbiamo le guide verdi del Touring Club Italia, che sono offerte sono in vendita col Sole 24 Ore, normalmente in formato tascabile, ma oggi ve le diamo tutte quante le 14 guide alla ricetta più originale. 800 24 00 24, vi aspettiamo la vostra ricetta per mettere KO lo spreco. Adesso andiamo ad iniziare, vai. Ho scelto questo recente brano di Malika Ayane perché lei dice ti passa il momento e rischi di perdere l'attimo. È quello che sembrava stesse per succedere proprio per quanto riguarda la storia delle acciaierie di Piombino. Dopo i grandi annunci sembrava quasi che l'accordo stesse per sfumare, invece in settimana l'accordo è stato trovato con i sindacati, ci sono ancora dei passaggi da fare, ma insomma il futuro dei 2200 lavoratori sembra in buone mani. Ne parliamo con il segretario generale della FIM CISL, Marco Bentivogli. Buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto di sabato mattina. Grazie. Qua si può fare. Allora, cioè, io l'ho detto, sembrava quasi che di questo annuncio, dato anche da Renzi, in pompa magna, gli algerini rilanciano il futuro dell'acciaio di Piombino, non si sentiva più parlare. Qualcuno dice che eravate voi che vi eravate messi un po' di mezzo, poi non lo so, adesso ce lo racconterà lei. In settimana però, diciamo, l'ha schiarita, c'è stato l'accordo. Sì, c'è stato un accordo e la buona notizia è anche che il 91,6% dei lavoratori lo hanno votato come tale, per cui hanno quindi considerato... è già stato ratificato anche dai lavoratori. Assolutamente sì, in realtà la vicenda di Piombino parte dal 2009, è stata una vicenda molto dura perché si sono affacciati tanti acquirenti, addirittura non so se ricordate c'era stato un acquirente sostanzialmente fasullo che aveva promesso, sì, di acquistare e poi era sparito senza pagare neanche i conti al ristorante, per cui situazione una cosa alla Totò, insomma. Sì, piuttosto paradossale, ma ultimamente in Italia tra questi potenziali acquirenti di esteri ne accadono di queste situazioni. Si è affacciata questa società Cevita, l'algerina, sì, con mille difficoltà. La difficoltà più grande, per la verità, non è stata nell'accordo sindacale, la difficoltà più grande ha riguardato il governo algerino, che non è tanto d'accordo che il suo imprenditore porti soldi a essere investiti nel nostro paese. Per cui e questo infatti è un punto, no? Perché insomma qualcuno, intanto dal vostro punto di vista, intanto le voglio chiedere questo, Bentivogli, c'è un problema di, diciamo così, di italianità in un settore come questo qua dell'acciaio, oppure ai lavoratori e rappresentanti sindacali interessa che ci sia qualcuno che investe, poi se è tricolore o algerino non importa? Guardi, io sono abituato a vedere cose buone e cose cattive indipendentemente dalle bandierine che si mettono sopra le aziende. E di fatto non c'è stato nessun italiano disponibile a fare un'operazione di acquisizione verso Piombino, ma anche rispetto a tutte le altre aziende, perché in questa fase ci sono acquirenti dalla Cina all'India, alla Turchia, all'Algeria, perché il capitalismo italiano un po' si è buttato su altre cose un po' più semplici, un po' più vicine alla rendita che alla fatica di fare impresa. Questo è un problema molto serio, per cui io credo che questo non rappresenti di per sé un problema. Tant'è vero che all'Associazione dei Siderurgici Italiani abbiamo incalzati più volte per dire: ma perché non investite più su Piombino? Ricordo a tutti che Piombino è una delle capitali dell'acciaio italiano, c'è Taranto, Terni, Piombino e poi Bergamo e Brescia, che sono, sì, le città più importanti dove si è fatto l'acciaio, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Ecco, però a proposito di quello che diceva lei prima, cioè che il governo algerino insomma è un po' recalcitrante, perché qualcuno maligna quando ci sono questi grandi acquirenti stranieri e dice: ma magari questi vengono, acquisiscono le conoscenze dell'impresa italiana che si comprano in quel momento lì, poi dopo qualche tempo se ne vanno, portano tutto, diciamo, come dire, rilocalizzano nel loro paese. È un rischio che lei vede o no? C'è sempre questo rischio, e c'è anche con aziende di qualsiasi nazionalità. Anche l'operazione Whirlpool, non sono algerini, sono americani, hanno acquisito promettendo mari e monti e poi ci hanno presentato un conto di 2060 licenziamenti e 4 siti chiusi, per cui bisogna vigilare. La vigilanza non è sufficiente. Servono delle regole che già negli anni 90, lei sa che sì, la siderurgia e i grossi asset industriali italiani sono stati privatizzati negli anni 90. Se avessimo inserito allora degli elementi di governance d'impresa come ci sono in Germania e Nord Europa, per cui i lavoratori hanno la possibilità di partecipare alle scelte strategiche, ecco, il vincolo di responsabilità sociale sarebbe un po' più forte. E oggi queste possibilità speculative, certo, sono sempre possibili e probabili, e proprio per questo serve che noi continuiamo a insistere con il governo perché la responsabilità sociale debba diventare un elemento per cui chiunque vuole comprare in Italia deve sapere che deve fare i conti con il fatto che non si possono fare investimenti mordi e fuggi. Ecco, ma sì, importante. Quando diciamo, per quanto riguarda Piombino, 2200 lavoratori saranno, credo di aver capito bene, tutti progressivamente riassorbiti? Bentivogli, mi sente? Sì, sì, sì, tutti quanti. Tutti quanti riassorbiti. Sì, in due tranche, 1080 nella prima fase e gli altri 1080 nella seconda. Okay. Ma l'accordo è anche più importante perché oltre a riconfermare la vocazione siderurgica di Piombino, per cui ci sarà il futuro della questa ex Lucchini Cevital che si chiamerà Aferpi, a Piombino c'è la Tenaris Dalmine e l'ArcelorMittal che è un colosso tra i più grandi al mondo della siderurgia. Questo progetto su Piombino prevede anche un momento importante di bonifica del territorio per costruire anche una diversificazione, per cui ci sarà in parallelo un investimento sulla logistica molto importante perché si vuole tentare di costruire un polo per la rottamazione delle navi. Sì. È un dato positivo che arriva dall'Europa. Noi fino a quest'anno tutte le navi costruite e utilizzate in Italia le andiamo a smaltire nel sud del mondo nelle peggiori condizioni di lavoro e di sfruttamento. Da quest'anno in Europa per fortuna si è arrivati a una direttiva che dice no, quello che costruite e utilizzate in Europa lo smaltite in Europa, non potete più considerare il sud del mondo come la pattumiera. E anche questa può essere considerata una ricetta contro lo spreco. Adesso oggi faccio un'incursione con un altro argomento, stiamo parlando della festa di cittadinanza attiva a Spoleto che vuol mettere KO lo spreco e anche noi chiediamo agli ascoltatori oggi di scriverci all'800 24 0024, di chiamarci per lasciarci la loro ricetta contro lo spreco. Anche in questo caso possiamo dire che sì, certo, le navi vanno smaltite laddove sono state costruite con diciamo meno sprechi anche di viaggi inutili, e questo sta dicendo Bentivogli apre anche ad altre possibilità per quanto esatto. riguarda il nostro apparato esatto. industriale. Per cui quella città verrà bonificata perché sì. la siderurgia vecchia maniera aveva un impatto ambientale troppo impegnativo, e anche su questo non esiste un'equazione che l'acciaio, la produzione d'acciaio è nemica dell'ambiente. E per questo noi vogliamo sostenere tutti i progetti che portano l'esempio principe sì. che abbiamo subito fuori dai confini è l'INT, che è un impianto che ha metà del tonnellaggio prodotto in Austria di Taranto, ma è praticamente dentro la città e ha un rapporto di ecosostenibilità eccezionale. Ecco, e questo, sì. questo perché accadono queste cose? Perché è un po' il senso del vostro programma. In Italia si diventa famosi e è tutto importante quando si parla delle cose che vanno male e quando le si spiegano bene. A chi bene. Lo dice Bentivogli? ecco, se invece cercare di costruire per i politici, per i sindacalisti e per gli industriali esempi di buone pratiche per cui risolvere i problemi non fa mai. Spesso non si finisce sui giornali. Noi la nostra parte ce la mettiamo per far questo. Però senta, c'è già chi ci scrive al 349-238-6666, ma vedo anche su Twitter. Insomma, la siderurgia non è il settore, è finita in Italia. Basta cercare di investire su queste cose. Bisogna voltare pagina. Lei che ne pensa? Ma noi intanto siamo ancora il secondo paese siderurgico d'Europa. Poi io vorrei chiedere a tutti coloro che hanno queste opinioni se utilizzano quotidianamente metallo. Basta pensare che il 40% dei materiali, dei prodotti che esportiamo è fatto di acciaio. Allora, se la siderurgia non è ancora un settore su cui investire, bisognerà fare altro proprio esattamente come paese. Se la Germania continua sì. a investire nella siderurgia, se la Cina, il Giappone continuano a investire nella siderurgia, si vede che la fine di questo settore, che è considerato primario per tutta l'industria, non c'è. Certo, bisogna pensare al futuro. Il futuro del primario sicuramente si caratterizzerà in nuovi materiali, questo non c'è dubbio. E questo è un grande problema perché il nostro paese non sta investendo sui nuovi materiali. Ci sono materiali resistentissimi come più dell'acciaio, il grafene e molti altri materiali utilizzati nelle tecnologie tradizionali, però bisognerebbe investire anche di più esatto, sulla ricerca, sul futuro. Soprattutto chi dice no, adesso bisogna pensare al futuro, ecco, vale il teorema di Tarzan, si lascia una liana quando quantomeno la si vede l'altra, perché sennò si cade e basta. Settimana scorsa c'è stato un altro accordo importante, anche qui alcune centinaia di posti di lavoro, quello alla Lamborghini anche qua un accordo firmato da tutti i sindacati. Altra buona notizia, qui un sito che cresce, un sito produttivo che cresce, a differenza di Piombino che è un sito che rinasce in qualche modo, ma che c'era già. Si è parlato in quel caso di modello tedesco per quell'azienda, un modello di relazioni sindacali diverso da prendere ad esempio. È vero o sono solo cose titoli giornalistici? Ma spesso ci sono delle semplificazioni giornalistiche, però è importante che si entri in quella logica di relazioni industriali, e cioè il sindacato non si mette più a imporre i suoi diritti di veto, in cambio però c'è la possibilità di partecipazione come diritto dovere rispetto alle scelte strategiche di imprese. Questo è un elemento molto importante in questa famosa charta Volkswagen, che però appunto prevede questo, chi parla di modello Lamborghini non lo racconta, prevede che tutte le esigenze di competitività dell'azienda, da turnistiche anche all'accelerazione della linea di montaggio che è prevista dall'accordo, il sindacato se ne debba far carico. Noi rispetto a questa sfida ci stiamo, ma guardi, in questo periodo se ne stanno facendo per fortuna tanti di accordi di salvataggio di imprese, di creazione anche di lavoro, per fortuna, non solo perché c'è una piccolissima ripresa, ma perché anche il sindacato cerca di rendere conto che bisogna far di tutto per difendere il lavoro quando c'è, perché quando gli stabilimenti chiudono è il 90° minuto per il sindacalista, dopo non c'è grosso spazio e grossa possibilità. Anche l'accordo per la Franco Tosi è un accordo importante. Sì. Sulla Lamborghini abbiamo combattuto con Bratislava per la localizzazione di questo investimento, c'è stato scandalo perché si utilizzano soldi pubblici, ma la capacità dei soldi pubblici di attivare una quantità di soldi privati molto più ampia è notevole, per cui va sicuramente sostenuta. Senta, e poi un'ultima cosa le voglio chiedere, è questa, no? Su questi dati OCSE che certificano a metà settimana, insomma, il calo della disoccupazione in Italia, scesa, insomma, si fa per dire, al 12,4%, che è sempre un livello alto, ma l'importante è che si cominci a mettere, diciamo, il segno meno, no, sulla disoccupazione, quindi a far crescere l'occupazione. C'entra qualcosa secondo lei il Jobs Act, come dice il governo, oppure si tratta di investimenti che sarebbero stati fatti comunque, dipendono dal ciclo economico? Ma il Jobs Act è uno degli elementi. Bisogna sapere che con il Jobs Act le imprese hanno una fetta imponente di decontribuzione, cioè hanno fino nel triennio 8.000 euro in meno di tasse da versare, per cui sicuramente questo è un incentivo. Bisogna però anche aggiungere che tutta l'Europa sta correndo, perché abbiamo un prezzo basso del petrolio e un prezzo basso dell'euro rispetto alle altre valute, per cui le esportazioni rivalgono. La cosa importante, che però tutti non ne parlano, è che mentre l'industria esportatrice è continuata ad andare durante la crisi, finalmente riparte l'industria collegata al mercato interno. Finalmente, per esempio, l'industria dell'auto ha un mercato, l'industria italiana dell'auto ha un mercato che è doppio di quello europeo. Bisogna pensare che durante la crisi il mercato europeo era il peggiore del mondo e quello italiano era il peggiore di quello europeo, per cui c'è stato un ribaltamento. Anche qui, Maurizio, grazie agli accordi sindacali, non so se è sconveniente dirlo, fatti proprio Fiat FCA, e per cui ci sono non 500 ma migliaia di assunzioni vere e di nuovi posti di lavoro. E a Cassino dal 24 giugno ripartirà altrettanto lavoro, e alla fine dell'anno anche Mirafiori, con un analogo SUV appunto di Maserati, riporterà a saturare quello stabilimento. Per cui sono tante buone notizie. Bene. Che sono sicuro andrebbero valorizzate, anche perché dare sempre buone notizie e dare sempre cattive notizie non fa arrivare quelle buone, anzi. Noi, ho già detto, facciamo la nostra parte il sabato e la domenica mattina. Grazie Bentivogli per essere stato grazie con noi. A voi. Il grazie. Segretario generale della FIMCISL, siamo partiti da qua, da questa notizia, l'accordo con i sindacati e la proprietà algerina Cevital sui contratti di lavoro per il rilancio delle acciaierie di Piombino, 2.200 posti di lavoro. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete commentare questa storia, oppure anzi, se volete giocare con noi per darci la vostra vostra ricetta per mettere KO lo spreco, perché di questo parleremo più avanti nel corso della puntata, collegandoci anche con la festa di cittadinanza attiva a Spoleto. Non so, riutilizzo degli spazi abbandonati, ricette di cucina con gli avanzi, tutto quello che volete. La ricetta più bella in palio oggi: le guide verdi del Touring proposte dal Sole 24 Ore. Tutta la guida, 14 guide meravigliose. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Ci scrive Francesco al 3492386666. Produco energia con motore azionato da aria calda ottenuta dal sole, il tutto con pezzi di recupero. L'illuminazione dell'abitazione è a LED ed è autonoma per 365 giorni all'anno. Bravo Francesco, questa è una meravigliosa ricetta per mettere KO lo spreco. Però chiamateci all'800240024 se volete vincere la collana delle guide verdi del Touring per la ricetta più originale, più bella. Aurelio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, a dire la verità chiamavo, avendo sentito sindacalista, mi sembra Ventivoglio si chiamasse. Ventivoglio, siamo partiti da qua stamattina. Ecco, oltre al piacere che possiamo avere tutti perché ci sono dei posti di lavoro che vengono salvati, però mi sembra quantomeno così un po' illusoria questa speranza che l'acciaio in Italia possa rappresentare tutto quel panorama, quel mondo che lei dice è tra quelli che dice che l'acciaio è superato, insomma. No, non è superato, è superato in Italia, nel senso che Cina, India, i paesi emergenti sono in grado di produrre molto più acciaio, lo producono anche molto meglio, di qualità, e quando vogliono decidono anche a che prezzo produrlo, no? Quindi possiamo noi basare tutta l'economia su una questione così sottilmente legata al prezzo di un mercato che è sempre meno disposto a pagare il lavoro e quindi a sostenere. Lei, poi, diciamo, sì, rientra, grazie intanto per aver chiamato Aurelio, rientra tra tutti quelli che hanno delle perplessità su questi settori tradizionali dell'industria per quanto riguarda paesi ad economia avanzata come l'Italia. Però fino ad oggi produrre acciaio in Italia è una cosa che è stata fatta, ricordava Bentivogli, siamo ancora tra i principali produttori in Europa, lo fa anche la Germania, che è un paese avanzato tanto quanto noi. E poi vedremo se questi accordi tra le aziende e i lavoratori stanno sul mercato, se riusciranno ad essere competitivi, allora avranno avuto ragione loro, altrimenti avrà avuto ragione la perplessità di chi la pensa come lei. Ada da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io. Prego, su cosa vuole intervenire Ada? Sì. No, volevo intervenire sullo spreco, perché ecco, voi ogni sabato o domenica parlate di spreco, parlate come si può risparmiare, eccetera, eccetera. Poi assistiamo in televisione nazionale a una pubblicità come la Team Epif che cercano di passare un messaggio che per calmare la tua coscienza che stai cercando di costruire, basta trovare una scusa per ottenere qualcosa di perfettamente buono. Cioè, parla dei cellulari? Certo, parla dei cellulari, ma potrei parlare di qualsiasi cosa. In questo momento il cellulare, perché qui è veramente sfacciato la cosa. È vero, cosa. Si cambiano i cellulari che funzionano perfettamente semplicemente per passare a quelli, diciamo così, all'ultima moda. E anche questa è senz'altro una forma di spreco. Poi ognuno fa i conti con le proprie tasche alla fine del mese, però diciamo sul piano generale Ada non ha ragione. Ma Ada, c'è ancora in linea? Sì, sono qui. E lei cosa proporrebbe per metter fine a questa cosa? Stiamo parlando di qualche cosa che è completamente facciata. Cioè un discorso, lei suggerisce un discorso individuale di scelte di consumo per cui ognuno dovrebbe farsi, diciamo, un esame di coscienza, oppure per esempio proibire queste pubblicità che inducono allo spreco. Ecco, la ricetta di Ada, grazie. Perché oggi giochiamo così e vogliamo ricette precise e concrete per mettere KO allo spreco. La ricetta di Ada è proibire le pubblicità che incitano a buttare via prodotti funzionanti. Non so se è una cosa fattibile, ma questa è la proposta di Ada. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ciao, sono Emilio e ho perso la famiglia. Da quando ho preso i soldi di Giovanna, mia figlia, è l'inizio della fine. Vendo la mia fede nuziale, ho venduto l'oro e tutte le mie catenine. È un disastro, amici, passioni, famiglia, la casa, la mia vita distrutta da un solo tasto. Potrei dire basta, ma per oggi non posso. Fatto sta che chiudo l'ennesima volta in rosso. Un'altra notte in bianco, sai che novità qua. Resto a tasche vuote perché ha vinto ancora il banco. Non capisco neanche se siete, se sono stanco, se ho fame. Striscia. Torniamo ad Ana Capri, dove avevamo lanciato il referendum indetto dal comune, dal consiglio comunale, contro le slot machine, per mettere un freno alle slot machine. Ebbene, il referendum c'è stato, i cittadini hanno votato. Francesco Cerrotta, sindaco di Ana Capri, buongiorno. Buongiorno a lei. Come hanno votato? Cioè, diciamo che il risultato si sa, hanno votato il 90% hanno votato sì alla distanza delle slot dai luoghi sensibili. Esatto, a mettere un freno. Quindi su 2000, poco più di 2000 votanti, 148 sì e 140 no. E dei voti contrari ci sono stati? No, 140. Però 140 no. No. Sono giocatori di slot, che sono quelli che giocano. No, non credo. No. Uno degli errori, perché sa, il referendum a volte il sì col no, c'è una confusione sul quesito. Sì. E qualcuno si è potuto pure sbagliare. Poi non è questa una crociata contro il gioco, insomma, non è questione di dire che non si vuol far giocare le persone per una questione puritana, eccetera, ma è che c'è un eccesso di offerta. In questi anni è cresciuta a dismisura, c'è un allarme sociale per le ludopatie, gente che si sputtana lo stipendio, possiamo dirlo anche con questo termine, perché è quello che accade. E adesso però cosa accade invece nel vostro comune? Dopo che avete votato questo referendum, è vincolante questa decisione? Si è confermato il regolamento che noi abbiamo adottato anche a suffragio popolare. Ci sono comunque delle situazioni giurisdizionali, che cioè nel senso che ci sono dei ricorsi al TAR e al Presidente della Repubblica su questo regolamento, e noi ci difenderemo anche su. Cioè, avrete più forza per difendersi dai ricorsi. Ricorsi di chi? Dei gestori che vorrebbero invece. Perfetto. C'è una problematica seria, perché noi a volte aiutiamo delle famiglie, la mamma che viene al comune che vuole essere aiutata sulla retta della mensa perché il marito non gli dà più i soldi, e allora sono problemi seri, e invece stiamo cercando di tamponare. Adesso faremo pure un centro di ascolto anonimo con degli psicologi, dell'assistenza sociale, per cercare di arginare questo fenomeno. Ma questo, secondo lei, questo del gioco d'azzardo, delle slot machine, è cosa che, diciamo, che deve essere regolamentata da livello comunale, dai comuni, secondo lei, oppure dovrebbe essere regolamentata da una legge nazionale? Allora, la legge nazionale purtroppo c'è, non la regolamenta. Lascia piena libertà agli esercenti di mettere le slot dove vogliono. Noi riteniamo che, fatta la legge generale, ogni amministrazione possa decidere perché metterle in un posto piuttosto che un altro, perché in tutte le città non sono tutte uguali. Un ambiente come il nostro ad Ana Capri è diverso da via Tot de Tot di Roma, di Milano o di Afragola, e il nostro ambiente per esempio non è confacente a queste slot. Noi riteniamo che i commercianti non debbano essere beneficiati per il numero delle slot, ma devono essere beneficiati per come prelevare una vetina. Se invece il guadagno è facile, il commerciante non se ne importa più del suo commercio e mette una slot in più al giorno. È un problema pure culturale. Ma voi date, per esempio, come fanno in alcuni comuni, incentivi ai bar che rinunciano alle slot? No, perché altrimenti dovremmo dare i primi incentivi a chi non li mette, a chi non li ha mai avuti. Cioè, per una forma, diciamo, di democraticità nell'intervento, noi riteniamo che non sia corretto dare qualcosa in più a chi le toglie. Dovremmo incominciare a dare qualcosa in più a chi non le ha mai messe. Ecco, va bene, insomma, grazie al sindaco Cerrotta di Ana Capri. La notizia è questa: si è votato il referendum, i cittadini si sono espressi e hanno detto sì alle slot machine, per semplificare, sì a mettere delle distanze minime dai luoghi sensibili. Pino da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Per chiudere questa parte del programma, su cosa voleva intervenire Pino? Ma volevo intervenire sulla possibilità di risparmiare e di non sprecare cibo già cotto. Bravo. In molte famiglie oggi si sta attenti più che altro a spendere in modo consapevole, per cui il cibo che a volte si cucina in eccesso, che è cibo assolutamente commestibile, viene buttato. Ma lei ce l'ha una ricetta per non farlo? La ricetta sì, si potrebbe organizzare un servizio che raccoglie questo cibo che una volta messo sotto vuoto e congelato viene poi portato in centri di raccolta dove ci sono dei freezer questo... che lo tengono congelato e poi viene distribuito in centri di raccolta. Questo già si fa, Pino, grazie comunque per aver chiamato sul sottovuoto. Poi insomma il problema è che questa cosa si fa a livello di volontariato e invece bisognerebbe forse che insomma, il governo ci mettesse dei soldini. 800 24 00 24, tra poco con Brunori Sassi, il cantautore, tra poco. Si può fare, cronache da un paese migliore. Forse ha ragione la donna delfino, che la vita è proprio come te la immagini tu. A ciascuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più. Chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in fila da anni, chi non può più aspettare. Tu, aggrappata ad un angolo di cielo a guardare questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna, dai, dai, dai, ci sei tu, con il culo per terra e il morale alle stelle, a tener su la vita con un paio di bretelle. O forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via per raggiungere la verità. C'è chi beve negroni, chi nemmeno un caffè, chi si è rotto i coglioni di guardare Rai 3, chi è partito e si è perso, e chi ha perso il partito, chi si sente diverso, chi non alza mai un dito. E tu, adagiata su un angolo di cielo a guardare questo mondo che si affanna, che si illude o si inganna, dai, dai, dai, ci sei tu, la mia unica luna fra milioni di stelle, a tener su la vita con un paio di bretelle, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, da, da, da, da, da. Dario Brunori, Brunori Sas, buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Ciao. Staremo insieme un'ora in studio con noi, sentiremo altre canzoni, questa era Tra milioni di stelle. Un nome, è vero che deriva dall'azienda di famiglia Brunori Sas? Sì, assolutamente. Azienda di piccola ditta di costruzione, così scrive Wikipedia. Sì, è vero. Di rivendita di materiali da costruzione. Noi non abbiamo mai costruito, ma abbiamo fornito l'hardware necessario. Sas sarebbe società, cos'è, in accomodazione? Società in accomodita semplice, esatto. Qui so che a Radio 24 queste cose sono molto apprezzate. Sei in linea con l'editore, perfetto. Ma anche tu ci hai lavorato o sei scappato subito per fare il cantautore? Sono scappato all'inizio, per fare un po', diciamo, per scappare, per fuggire, come fanno in tanti. Io, si sarà capito dalla mia dizione imperfetta, che vengo da giù. E poi a un certo punto della mia vita sono ritornato a casa perché mi dovevo occupare proprio della ditta, e nel periodo in cui mi sono occupato fatto di questa cosa, è stato un paio di annetti, poi tornavo a casa distrutto dal fatto che ero un pessimo imprenditore, quindi ho cominciato a scrivere i primi pezzi, il primo pezzo era proprio l'imprenditore e sì. Da lì è nata l'idea di dare a questo progetto artistico una ragione sociale. Però tu sei anche laureato in economia e commercio. Sì, ce l'ho fatta, alla ce l'hai fine. Fatta. È stata dura, lunga, ma ce l'ho fatta. Quindi avresti potuto essere, anziché un cantatore, semplicemente come tanti altri ragazzi che poi prendono, diciamo, le redini dell'azienda paterna. Sì, sì, ma era cose di questo genere. Sì, poteva essere. Infatti, ma perché ho avuto sempre una grande passione per la musica, ma allo stesso tempo un'educazione, anche diciamo un'impronta familiare, è un po' più pragmatica, no? Mi si diceva sempre tieni un piede di lì e un piede di là, e quindi questa cosa ho cercato di rispettarla, ma poi alla fine quando arrivi ad una certa età capisci che vuoi fare una cosa, ci provi, ma è andata bene. Sei soddisfatto dell'equilibrio raggiunto tra queste due parti di te, quella che segue la passione per la musica e quella che invece ha un senso così anche di responsabilità? Ma guarda, secondo me sì, perché comunque viviamo un'epoca in cui fare musica non è semplicissimo, e quindi avere comunque una parte razionale oltre a quella creativa, secondo me aiuta ad organizzarsi. A te ha aiutato, insomma. Sì. Sì, sicuramente. Allora, nato a Guardia Piemontese, Cosenza, appunto abbiamo detto laurea in economia e commercio a Siena, la prima band con cui si è esibita, una formazione italo-svizzera, sembra veramente una cosa da emigranti questa tua storia. Sì, esatto, anche se in realtà era una formazione molto nordica, se un collettivo, era il primo tentativo all'epoca, agli albori di internet, di fare collaborazioni musicali fra persone che non si conoscevano e quindi scambiandosi file. L'esaltazione per le prime momenti di internet, sì, in cui tutto sembrava... Ci mettevamo 6 mesi, perché per passare i file all'epoca con un 56k, con un modem 56k, cioè era praticamente impossibile. Sì, assolutamente. Il primo disco, volume primo, volume 1, poi hai fatto volume 2, sì. Con un sottotitolo, Poveri Cristi, volume 3, è una cosa un po' De Andreiana o mi sembra solo a me questa qua? Sì, in realtà quello che io volevo fare col primo disco non era tanto, non mi permetterei mai, ma di citare De André anche solo indirettamente, anche per evitare l'ira funesta dei fan, sì. No, era più che altro un legame col fatto che il primo disco aveva questo sapore molto sessante, quindi mi piaceva l'idea che sembrasse una raccolta. Visto una volta si facevano i dischi non come dischi, come album, ma come raccolta dei singoli, e quindi questa cosa ancora prima dei concept album che poi sono arrivati dopo. Esatto, e quindi era un po' quello il sapore, anche se il paragone che fanno con te è sempre quello con Rino Gaetano, perché siete calabresi entrambi, per questa vena ironica e per tante altre cose. Ti ha stufato questa cosa? Ti piace? Io dico sempre che penso che lui non sia contento, ovunque sia, non sarà contento di questa cosa. Beh, aver per trovato me... un erede in qualche modo, perché lo so, no? Penso avrebbe desiderato di meglio come erede. Comunque, sicuramente è un paragone che mi fa piacere, mi lusinga. Sì. Ovviamente, come tutti quelli che fanno questo mestiere, si cerca anche di trovare una cifra personale, quindi quando può diventare una prigione il paragone, ma non con Gaetano, in generale, qualsiasi paragone. Beh, certo. Se poi diventa una prigione, è un problema più che altro mio. Per qualunque cantante, credo oggi, giovane o giovanissimo o adulto come te, ma insomma di un'epoca successiva rispetto a quella dei grandi cantautori, c'è sempre il confronto con qualcuno, è un po' inevitabile, però poi si va avanti lo stesso. Eh beh, sì, abbiamo avuto comunque dei grandi cantautori, quindi è inevitabile che ci sia il confronto. Senti Dario, normalmente noi qua siamo in due, c'è anche Carlo Gabardini che adesso si trova convocato in un'altra città per un'altra questione. Carlo? Eccomi qua, buongiorno a tutti, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Bruno Risassi, sono molto scontento di non essere lì perché mi sarebbe piaciuto moltissimo, aspettavo in questo momento tanto, ma purtroppo, purtroppo, per fortuna insomma sono dovuto. Con un'ora di ritardo ci colleghiamo con Canò, scherzo, normalmente sei qua fin da lì, mi sono svegliato comunque alle 6:30. Per ascoltare la rassegna stampa, immagino Carlo. Esatto. Diciamo, svegliamo anche il motivo, l'ho detto prima in apertura del programma, per cui tu sei a Benevento dove ti hanno convocato gli organizzatori del Gay Pride in qualità proprio di testimonial. Ormai signori, sono a Benevento, c'è un sole bellissimo e ieri ho presentato qua il mio libro e sono il testimone del Gay Pride che si fa oggi alle 4, perché in realtà inizia l'onda Pride, quindi sono i Pride un po' in tutta Italia, ci sono altri due Pride molto importanti che sono a Verona e a Pavia. Perché si parla sempre dei Gay Pride delle città, non so, di Roma, magari Palermo, Torino, ma di Benevento io non sapevo proprio nulla, quindi ricordiamo l'orario dove si fa, così magari qualcuno che ne ha voglia da quelle parti dell'Italia del Sud ci va. Giustissimo, la partenza, il concentramento del corteo è alle 15 in piazza 4 novembre, la cosiddetta Rocca dei Rettori, e alle 16 c'è la partenza del corteo, che si prevede che arriverà intorno alle 18-18.30, quando ci saranno i discorsi di rito, pare che parlerà anche il sindaco, parlerò anch'io, ma dirò due cose, insomma, lascio parlare le associazioni, giustamente, e questa cosa che tu dici, che si parla sempre del Pride romano, è vero, è un Pride importantissimo quello romano, ma è molto importante questo fatto che ognuno manifesti nella propria città. Ci sono tanti ragazzi e ragazze anche in città magari piccole che magari non ci vanno, sì, a Roma, però hanno piacere di... Sì, più che tutto secondo me è più giusto che vadano nella propria città, perché un conto è prendere il pullman, andare a Roma, sì, e diciamo fare la gita e per una volta fare gli omosessuali, se vogliamo. Invece sì, è molto giusto manifestare nella propria città e dire: ciao, io sono il tuo commercialista, sono la tua tabaccaia, sono gay, sono lesbica, non cambia niente questo, e va benissimo così. Quindi è molto importante, secondo me, andare anche nella propria città. In più, come lo ricordiamo sempre, tu Alessio lo ricordi molto spesso, la difesa dei diritti è una questione di tutti, quindi visto che non bisogna essere neri per difendere i diritti dei neri, non, sì, bisogna essere disabili per difendere i diritti dei disabili, aspettiamo anche tutti gli etero del mondo e di qualunque... razza nazionale, più diritti per qualcuno, esatto, non fanno male a nessuno, no, questo è lo slogan che io non mi sono uscito. Esatto, siccome è una protesta per, sì, i diritti, è giusto che ci vadano tutti, non è una manifestazione per omosessuali. Senti Carlo, hai una domanda per Dario Brunori o ci pensi durante il traffico? Tu, da noto, sì, esperto di musica, quale sei? Io di musica sono ignorante, mi piace semplicemente, vorrei semplicemente abbracciarlo, quindi ed è una cosa impossibile da fare per telefono. Va bene, ma lo facciamo lo stesso, vuol dire che virtualmente tornerà a trovarci. Grazie mille, molto molto volentieri. Carlo, molto grazie, volentieri. Un abbraccio a tutti. Ciao. Via Benevento. Grazie a voi e a tutti, un abbraccione e viva il Pride. Ciao. Anzi, speriamo anche che venga l'arcobaleno, perché qualcuno dice che forse pioverà, e quindi siccome adesso c'è un sole bellissimo, ci aspettiamo come al Pride di Milano dell'anno scorso, che arrivi l'arcobaleno. Sarebbe fantastico. E risolva tutto. Sarebbe fantastico. Qua a Milano invece c'è un sole incredibile e un caldo soprattutto terribile. 800 24 00 24, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Bruno Risas che canta ancora per noi, e poi, cari ascoltatori, vi ricordo, chiamateci per darci le vostre ricette per mettere KO lo spreco. In chiusura di trasmissione avremo chef, anzi lui preferisce farsi chiamare oste, Giorgione Barchiesi, dalla festa di cittadinanza attiva a Spoleto, che ci insegnerà a cucinare con gli avanzi del giorno prima. Ma noi accettiamo tutto, fare i cuscini con le magliette avanzate, oppure cucinare col calore della lavastoviglie, tutto quello che volete. 800 24 00 24. Vi ricordo anche che in premio mettiamo tutta la guida del Touring sulle città verdi, la guida verde sulle città europee, 14 meravigliose guide per la ricetta più originale. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Devo solo arrivare alla quinta elementare per diventare grande, grande come mio padre, e metterò il grembiule e imparerò a volare. E scriverò poesie d'amore soltanto per mia madre. Devo solo arrivare agli esami di maturità, prendermi sto diploma e poi dopo si vedrà. Non mi piace la scuola, non mi piace studiare, voglio solo suonare, voglio bere e fumare. È un altro capodanno, un altro carnevale, un altro ferragosto e ancora un altro Natale. La prima comunione, il primo funerale, la festa del paese, la morte del maiale. Si può nascere un'altra volta, puoi rinascere ancora un'altra volta se ti va. devo solo arrivare alla fine del mese, prendere lo stipendio e poi badare alle spese con quello che rimane, programmare le ferie, quest'anno vado al mare che mi voglio rilassare. Devo solo arrivare a due passi dall'altare, prendere una moglie e poi essere un buon padre. Dopo 40 anni forse andarmene in pensione con l'orologio d'oro al polso e il gelo dentro al cuore. E un altro capodanno, un altro carnevale, un altro ferragosto e ancora un altro Natale, la prima comunione, il primo funerale, la festa del paese, la carne del maiale. Si può nascere un'altra volta, vuoi rinascere ancora un'altra volta se ti va. Ancora un'altra volta se ti va. Fiumi dentro i mari, i funghi sotto i rami secchi e i fumi nei camini. E passeranno i giorni e passeranno gli anni e brinderemo ancora per 200 capodanni. Si può nascere un'altra volta, poi rinascere ancora un'altra volta se ti va. Bruno Risas, le quattro volte, grazie ancora per essere in studio con noi. Grazie a voi. E allora, di cosa parla questa, cosa sono queste quattro volte, Dario? Ma in realtà il titolo l'ho mutuato da un bellissimo film poco conosciuto, purtroppo, di Michelangelo Frammartino, che è un regista, tra l'altro, di origini calabre. Un film molto, molto bello a livello di immagini, con questo tema, insomma, della ciclicità della vita, e quindi delle quattro, non quattro stagioni della vita, ma è un susseguirsi di stagioni della vita che passano poi per animali, piante, eccetera eccetera. Questa cosa mi aveva molto suggestionato, e quindi racconto quella che è un tema che mi è molto caro, anche forse perché sono arrivato un po' tardi a fare quello che volevo fare rispetto a quello che ci dicevamo prima, che è quello delle scelte non fatte, quindi delle scelte predestinate. In ogni strofa c'è un racconto, un obiettivo, no? Già prefigurato della proprietà: quando sei piccolo raggiungere la quinta elementare, poi gli esami di maturità, poi trovare un lavoro per raggiungere la pensione. Questa cosa mi ha sempre un po' emozionato, perché appunto ho sempre avuto paura, o comunque ho sempre tenuto da parte le cose che volevo fare per fare quello che mi era stato detto, e quindi racconto un po' di questa, della possibilità. Nelle tue canzoni ci sono molti ritratti di questo tipo, in tutti i tuoi album, insomma, c'è sempre questo tema della, abbiamo già detto, un po' della distanza tra i sogni quando uno è ragazzo, le aspettative, e poi la vita reale. Si passa da cullare i propri sogni a cullare il bebè, a un certo punto, dice anche in una tua canzone, nel mambo reazionario. Tu invece personalmente come ti senti? Sei un cantante, hai realizzato la tua passione, quindi immagino che sarai soddisfatto. Sicuramente oggi faccio quello che ho sempre desiderato. Quindi già avere un mestiere, poi fare un mestiere che comunque ti appassiona, è una cosa, è un traguardo. Poi ovviamente, una volta raggiunto quello, perché gli esseri umani non sono mai contenti, c'è sempre una forma di insoddisfazione, che da una parte è anche il motore per cui poi fai altre cose. Però sono molto contento. Intorno di a te vedi molte persone disilluse, che avevano dei sogni che non riescono a realizzare, più di prima, più di quando eri ragazzo? Sicuramente sicuramente da una parte c'è il fatto che appunto è cambiato proprio il paradigma, quindi in realtà anche quello che sembrava essere la strada, no, la strada giusta e preimpostata, la famosa sistemazione, sì, non esiste più, quindi forse viviamo da una parte una disillusione verso la possibilità, dall'altra come sempre c'è l'altra faccia della medaglia, che è una fase critica come quella attuale in cui neanche le cose sicure che si pensavano, sì, sicure funzionano, ti puoi permettere anche il lusso di rischiarci, tanto perso almeno faccio quindi quello che mi piace. Quindi paradossalmente questo momento di crisi per te è un momento su cui scommettere sui propri talenti? No, io ti parlo della, è un discorso ovviamente spinoso ed è anche difficile generalizzare, sì, si rischia di banalizzare questioni importanti, però per me ha funzionato così, perché anche dopo la laurea comunque io ho cercato di lavorare, di trovare, perché non c'era nessuna... Non ti chiederò il commento sulla frase di Giovanotti, il tuo collega, che ha detto sì, che si può lavorare anche gratis, perché mi sembra una polemica montata. Questo è un po' il trend di oggi, è di fare polemiche anche senza poi leggere le dichiarazioni, sì, sulla base, sì, di un titolo. Io su questa cosa sono sempre un po' cauto, perché sì, vedo d'accordo, che le persone si accontentano del titolino e poi si scatenano i dibattiti. Per partito presso, e invece già se tu stai attento al contesto in cui è stata detta la cosa, le parole che sono state usate probabilmente... No, poi per carità uno può essere in accordo o in disaccordo, però spesso mi sembra che si giudichi, è già un pregiudizio che viene poi confermato da un titoletto che può essere, no, proprio fatto ad hoc per poter creare la polemica. È più importante la polemica del contenuto. Sono d'accordo. Il tuo secondo disco, volume 2, Poveri Cristi, chi sono invece appunto i Poveri Cristi secondo te? Ma nel disco parlavo un po' in generale di situazioni, siccome dipingevo questi piccoli, è un disco molto narrativo, quindi fatto basato su storie e racconto, anzi prima sentivo che parlavate delle slot machine, cioè sì, parte il primo pezzo, il giovane Mario. Il giovane Mario parla un po' di quello, ed è quindi il racconto, cercando sempre appunto per quello che ti dicevo prima di narrare da un punto di vista se possibile non di giudizio, quindi sì, non pontificare ma cercare di raccontare una storia soprattutto sul versante sentimentale. Penso che poi se uno vuole comunicare qualche cosa e riesce a farlo per tramite di una storia, sì, ed è quello di cui l'operazione che un po' ho fatto in quel disco lì era quella di raccontare storie. È il bello, la forza di queste storie è proprio quello di essere presentate, non so, sembra banale, così come sono, non c'è giudizio anche nel giovane Mario che gioca alle slot machine. Sì, perché penso che poi se tu racconti una storia appunto dal punto di vista di un uomo e di una donna, no? Sì, magari, e non esulando, cioè rimanendo lì dentro la storia, questa cosa poi ha una forza nell'ascoltatore che è molto più, dà una suggestione che, certo, comunque è più credibile, più porta, vera, porta alla riflessione piuttosto che dire ok, non sono d'accordo sull'uso. Ma questa cosa mi interessa perché noi ne abbiamo parlato spesso, ripeto, non è una campagna contro il gioco d'azzardo, ma è una presa d'atto che c'è stata una crescita di smisura di slot machine a tutte le parti, chiudono bar, chiudono cinema, chiudono teatri e aprono sale slot. È una cosa che io trovo incredibile. È anche preoccupante. Detto questo, questa canzone che parla anche di questa persona che si rovina e che tenta a un certo punto di suicidarsi perché sì, ha speso tutto e ha deludendo la sua famiglia, nasce ma non riesce neanche a suicidarsi perché gli va storto anche quello. Da cosa nasce? Da qualcosa che tu hai visto oppure da amicizie, da situazioni concrete o da titoli sui giornali che hai letto? No, in realtà è una cosa, questo disco qui era uscito fuori dopo un paio di anni di tour in cui ho avuto la possibilità e il privilegio di vedere tante parti d'Italia che prima mi erano precluse, quindi ho fatto si gira tanto e girando tanto questa cosa che dicevi tu salta all'occhio, cioè la presenza e comunque vedi tante persone in determinati contesti, e questa cosa mi aveva attratto appunto anche perché la cosa più importante per me non è dire bene o male, ma è perché. Mi chiedo sempre perché. Allora Prima di giudicare, mi immagino una storia e ci calo i personaggi. Questo era un po' il meccanismo, però sicuramente tutto avviene spesso da una suggestione momentanea. Sei in un bar, vedi una cosa e ti viene naturale. Tu stai attento agli sprechi nella tua vita? Sì, diciamo l'unica cosa che spreco è il talento. Questo è il mio unico questa spreco. Questa è perfetta, questa è veramente fantastica. Però questo non costa nulla all'ambiente. No, all'ambiente non costa nulla. Allora sentiamo un po' gli ascoltatori se hanno una ricetta per mettere KO lo spreco, una ricetta non solo di cucina, intendiamoci. Maria da Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato questa opportunità. Prego. Grazie al calabrese che ama la Calabria come me, lo condivido in tutto quello che ha detto e che ho ascoltato veramente con piacere e con orgoglio. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Già nel dire ti ringrazio, esatto, l'ha detto, esatto, Dario, no, in una maniera diversa. Cioè, più sì, sì, calabrese. Da calabrese, mi piacerebbe tanto conoscerlo e stringervi la mano. Grazie. Vabbè, guarda, allora io le dico, Maria, che abbiamo. Stata. Le dico le date degli spettacoli di Brunori. A luglio. Il 3 luglio al Festival Arti Visive di Soliera Modena, però è fuori mano per lei. L'11 luglio al Demo Day Festival di Bitonto Bari, sì, diciamo già più in zona, oppure il 16 luglio a Milano a Villa Arconate. In Calabria dovremmo suonare in agosto, così ad agosto viene in Calabria, è più facile, Maria. Per Maria. Sì, mi auguro di venire. Lo farò con piacere. Su cosa voleva intervenire Maria, però? Gli sprechi nelle amministrazioni. Brava. Cominciamo con la luce, sì, che viene usata in posti ed in momenti in cui non ce n'è bisogno. E non solo, la sera, quando vanno via, o il pomeriggio, lasciano le luci accese. Se si, sì, passa davanti a un ufficio di sera, spesso e volentieri si vedono parecchie camere. Quindi con lei le luci dice accese. Gli uffici dovrebbero avere dei sistemi per cui le luci a un certo punto si spengono. Qua, sì, per esempio, qua per, sì, esempio, dove si lavora anche la sera, le posso garantire che dopo un certo orario si fa buio, restano solo poche luci. Ma dovrebbe essere in tutta Italia, Va bene, e Maria, poi, questa è una bella ricetta, questa è una bella soluzione. Aspetti l'altra. Ah. E poi, che le somme dovute, sì, agli amministrativi, no? Agli amministrativi, le corrispondessero nei termini giusti, non facendo maturare anni, sì, di interessi e rivalutazione monetaria. Qui mi sono un po' perso, Maria, non so di cosa sta parlando, di pensioni o di che cosa? No. Allora, a lei non è mai stato fatto un torto, cioè non sono stati mai riconosciuti dei giorni, dei mesi, degli arretrati? Non è mai successo a non lei? Non lo so, ripeto, non so esattamente di cosa stiamo parlando, Maria, però io mi fermerei alla ricetta sulle luci, che bisogna spegnerle, perché prendo questa come suo suggerimento per partecipare con noi al gioco di oggi. Aldo, dalla provincia di Udine. Ah, buongiorno, volevo dare una ricetta che faceva mia nonna, che era di Milano. Sì. Mia nonna, da brava milanese, era molto brava a fare risotti, qualsiasi tipo di risotto, sì, e ne faceva tanto. Quello che avanzava lo lasciava in frigorifero tutta la notte, no? Sì. Poi la mattina dopo faceva il risotto del giorno dopo. Famoso. E praticamente prendeva il risotto e aggiungeva tanto formaggio tagliato a piccoli pezzettini, asiago, sì, emmental, sì, non mozzarella perché fa acqua, no? Sì. E la metteva in una bella teglia rotonda, il sopra forno. Metteva dei pezzettini di salame, sì, cosa sconsigliata. Beh, per i così, cioè, diventava buono per forza, formaggio, salame, e poi che ci mettiamo l'uovo? Aggiungeva un po' una spruzzata di pane grattugiato e grana padano. Vabbè. E poi lo metteva al forno per una ventina di minuti. Ed era buonissimo. Era una cosa meravigliosa, il risotto del giorno dopo. Aldo, grazie. Io sa cosa mi faceva invece la mia mamma o la mia nonna, non mi ricordo? La frittata con la pasta asciutta, esatto, avanzata. Esatto. Vero Dario? Era buonissima anche. Master. Adesso invece in generale cosa si fa? Si butta via. Non buttiamola via. Facciamo come Aldo che fa il risotto, poi non abbiamo chiesto se lui lo fa ancora o se è fermo a quello che gli faceva la nonna. Rossana, dalla provincia di Macerata, la sentiamo però, la facciamo adesso, ce la facciamo, Peter Bescapè? Sì, dai, facciamola. Rossana, buongiorno. Buongiorno, sono Rossana. Allora, sì, io invece quando lavo l'insalata recupero, sì, l'acqua e la do ai fiori nel balcone. Ah, ma veramente lo fa? Rosselli, perché io lo vorrei fare, anch'io ho un po' di fiori, però sempre mi dimentico sempre. Come fa a pensarci prima? Io me lo dimentico. Io lo faccio sempre perché ho lasciato le bottiglie di plastica, le, sì, riempio e le metto nel balcone. Quando serve per annaffiare i fiori, c'ho sempre l'acqua pronta. Ma dove la lava l'insalata? Dentro una ciotola, perché altrimenti l'acqua scorre e va via. Sì, dentro una ciotola la lavo, okay, poi recupero l'acqua, recupera, la metto nelle bottiglie e ci annaffio i fiori. Poi quando ho il pane raffermo, metto sopra un po' di pomodoro, un po' di olio, un po' di mozzarella, un po' di orégano, lo passo al forno, buonissimo, e tutta la cena. Brava Rossana. Siamo due pensionati, per noi va bene tutto. Bravissima, grazie, con due ricette, ben due soluzioni. Però Rossana, ancora in linea? Quale prendiamo? È caduta. Sì, eccola qua. Quale prendiamo per giocare? No, perché poi, sai, noi dobbiamo decidere qual è la soluzione che ci piace di prendiamo più. Prendiamo quella dell'acqua. Quella dell'acqua, mi sembra più significativa. Grazie. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo. Si può fare mare. Cronache da un paese migliore. Come stai? È la frase d'esordio nel mondo che ho intorno. Tutto bene, ho una casa, sto lavorando ogni giorno. E cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo che ho intorno. Tasso fisso, con l'Euribor c'è chi sta impazzendo da un anno. E cosa vuoi che scriva? Di cosa vuoi che canti? Dai, dai. Ah, na, na, na. Di com'è facile andare quando non sai guidare. Ah, na, na, na. Di com'è triste Natale senza mio padre. Na, na. Il calcio è la sola religione del mondo che ho intorno. Una pizza, una birra e poi andremo a ballare giù al mare. E cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Na na, ah, ah, na na na. Di com'è grande il mare quando non sai nuotare. Ah, na, na, na. Di com'è navigare a rallentatore. Na na na na na. Forse dentro me cambiano le cose. Forse dentro me cambiano le cose. Dentro il mio giardino nascono le rose. Bruno Rissas, grazie ancora. E questa era Come stai? E vi dico che Dario non legge niente e le sue canzoni le sa tutte a memoria. A memoria, sì. È una cosa che io mi sono sempre chiesto, come fate voi cantautori a sapere le canzoni? Beh, nel mio caso è facile perché tre quarti del testo sono dei nana nana, quindi mi sono aiutato con... Ti sei dato tanto una mano sono le parole che il mio pubblico preferisce, quindi... Il calcio è la sola religione che ho intorno, dici a un certo punto in questa canzone, dove siamo... Al solito la casa, il lavoro, il mutuo e il calcio. C'è qualcosa contro il calcio oppure così è un... No, in realtà no, perché sono stato per molto tempo, ora un po' di meno, un bel po' di meno, però sono stato molto appassionato di calcio. No, era semplicemente una constatazione del fatto che mi sembra che oggi il calcio incarni per le persone qualcosa di religioso in molti casi, nel bene, nel non bene. È più una passione così, non è più solo una passione, cioè mano a mano che sono cadute le ideologie, le religioni, le grandi appartenenze, quelle altre cose che rimangono, tipo il calcio, sembra che prendano il posto di tutto. Sì, ma poi come una religione, come una ideologia. Sì. Poi ovviamente con le varie anche estremizzazioni del caso, però è interessante perché evidentemente c'è questa necessità di convogliare, di viverla così. Una necessità degli uomini anche in questa cosa. Senti cosa ti combino adesso io. Noi cosa abbiamo mi combini? In collegamento Gianmarco, che è vicepresidente del club Peña Barcellonista de Turin. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno a voi. Un club di tifosi del Barcellona nel pieno di Torino. Esattamente, esattamente, siamo noi. E senti che bella cena, esattamente, proprio torinese puro. Cioè non hai nessuna radice spagnola. Perché un club di tifosi del Barcellona a Torino? Siete nati prima di questa finale, no? Cioè non è che è un'idea per stasera. No, siamo nati 5 anni fa come club. Sì. Poi ognuno di noi ha delle esperienze... diversi. Fate anche altro nella vita, insomma, avete anche degli altri interessi. No, no, sì. sicuramente sì, sarebbe bello dedicarsi al Barça in continuazione, ma sì, ovviamente facciamo altro, però ognuno ha l'esperienza. Ma cos'è, una religione il Barça, no? O sì? Beh. Sì, è più che un club, quindi sicuramente è una passione che travalica anche nell'ambito solo sportivo e quindi c'è un aspetto anche, diciamo così, storico, culturale molto importante di quello che ha rappresentato il Barça per la Catalogna e forse anche per la Spagna in determinati poi c'è anni. Il tema appunto dell'autonomia della Catalogna, c'è il tema della filosofia di gioco, sembra quasi il buddismo, cioè c'è veramente. Poi loro hanno il Messi A. C'hanno il Messi, esatto, il Messia, quindi siete proprio a posto. Come la vedete stasera la partita? In incognito o vi fate sentire a Torino? Ma guarda, andiamo a vederla a casa di un amico socio della Peña e quindi rimaniamo in casa, non andiamo al pub come facciamo spesso proprio per evitare problemi, perché sì, la finale è ovviamente una partita non come le altre, quindi beh, certo, per carità. Guarda che vi mando la nostra Claudia Schiattone, che stasera Juventina della Juventina, redazione Si Può Fare, viene a Torino a vedere la partita e chissà che non vi incontriate. Cosa fa? Intanto chi vince? È ovvio che tu lo sai, no? Un pronostico. Io devo essere scaramantico, dico solo che spero vinca il migliore. Diplomatico, bro. Beh, spero vinca il migliore, te la sei tirata addosso, perché il migliore sulla carta è il Barcellona, quindi diciamo non stai usando la scaramanzia. Esatto. Quindi va bene, prendiamo atto di questa, diciamo così, di questa è un auspicio. Sì. No, appunto, non scaramantico. Sai, qui c'è Brunori Dario che è calabrese, quindi non so se ha dei cornini da qualche parte nascosti. Sì, in quanto tu dici Juventino, sì, esatto. In quanto Juventino non ho corni, non sono scaramantico in questo senso. Questo ti manca. Come festeggiate in caso di vittoria? Avete già deciso? Questo no, non è ancora deciso, proprio perché non vogliamo pensare a quello. Sicuramente ecco, non arrivi fin là, insomma, con il tuo, diciamo, no. Con l'essere ci vogliamo godere la partita. Va bene, bravo Gianmarco, grazie per essere stato con noi. A voi. Vicepresidente addirittura del club. Ma quanti siete? Scusa Gianmarco, l'ultima domanda. Quanti siete nel club? Guarda, siamo una settantina, ovviamente ci sono più o meno attivi, nel senso che ci sono persone che risiedono qui a Torino e quindi c'è più possibilità di incontro, abbiamo anche degli amici qui in giro per l'Italia, ecco, quindi è una Peña che ha sede qui, ma soci un po' dappertutto. Come giusto che sia per un grande club come è la Juve, ma come è anche il Barcellona, anche soprattutto forse in questi ultimi anni. Grazie, ci fermiamo per una breve pausa per il traffico, torniamo tra poco. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in quest'ultimo spicchio di trasmissione 800 24 00 24. Stiamo ancora aspettando le vostre soluzioni per mettere KO lo spreco dalla Rocca di Spoleto, dove si tiene la festa di cittadinanza attiva fino a domani. Collegato con noi chef, anzi oste, Giorgione, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie per l'oste, sei molto preciso. Lo so che tu ci tieni, l'altra volta ce l'avevi detto, chef sì va bene, però oste preferisco, perché tu sei più pragmatico, cioè ti piace, si sa, chi ti segue lo sa, hai un approccio così, insomma, alla cucina. Sarai alla festa di cittadinanza attiva per dare il tuo contributo su mettere KO lo spreco in cucina, no? Sai che è molto importante, secondo me, anche l'impostazione che io ho dato alla mia dimensione è stata fatta proprio per evitare gli sprechi. Te la spiego subito in due parole. Tu in realtà, mangiando quello che io ti propongo, avendo sempre il menù su prenotazione, tu non butti niente. Perché non c'è un menù alla carta vasto per cui poi alla fine ti può avanzare qualche cosa. Non lo dico, perché nella tua ristorante, senso, diciamo, alla via di mezzo, che l'ho sempre fatto, nel senso che anche quando io facevo dei buffet o delle cose, era tutto mirato alla possibilità di evitare gli sprechi, da sempre, perché questa secondo me è stata una cosa sempre molto importante. Quindi secondo te un veramente cercare di mettere un freno agli sprechi dovrebbe limitare, diciamo, il numero di piatti, possiamo dirlo così semplicemente. Guarda, allora adesso senza togliere niente a chi fa un altro lavoro, perché poi dopo, per carità, un menù alla carta per cultura ti dà più spazio, per cui il cliente è invitato dalla scelta. Sì. Allora io che cosa faccio? Ti faccio vedere un grande buffet di antipasti. dove tu scegli, quindi la tua voglia di scelta ce l'hai sulla... Ma le pietanze, quelle che poi voi probabilmente cucini e quindi poi non puoi più riciclare, perché alla fine una cosa cucinata, a meno che non sia proprio un canto, la butti, la dai a altro, la dai al cagnolino, voglio dire. Sì. Però per me è importante che sia quella quantità tale per cui poi alla fine io ho cucinato quello che veramente è servito. Mm. E lì finisce, a fine giornata tutto è finito. Orto e Cucina su Gambero Channel, il tuo programma. Noi abbiamo avuto un paio di ascoltatori che hanno detto, perché ti chiedo anche a te di darci insomma una ricettina. Uno ha parlato dei risotti del giorno dopo, diciamo messi di nuovo in forno con tanto di formaggio, addirittura fette di salame e parmigiano. Dico alla faccia, è buono per forza. Alla faccia, alleggeriamo il tutto. Io sono laido e corrotto, no? Infatti, laido e corrotto, per cui più di te a chi possiamo chiederlo. Poi c'è stato, chi c'è stato? Ancora qualcun altro che ha suggerito? No, io ho citato la frittata che mia mamma o mia nonna, non ricordo chi, mi faceva con la pasta. Con la pasta al pomodoro avanzata, bellissimo. Certo. Poi si sa che c'è la variazione: se tu c'hai la pasta in bianco, che può scappare un po' sciottarella e un po' secchetta, è vero. Tu fai un trito di capri, acciughe e olive verdi su un po' di burro spumeggiante e ce lo butti sopra a fine rosolata. È laido e corrotto, perché il burro spumeggiante, già mi immagino dosi, com'è che dici, generose. E così deve essere, perché se facciamo cucina povera, almeno mettiamoci dosi generose di burro. Ma povero è un conto, la cucina laida è un altro, no? Qual è la differenza? Beh, sostanziale, tu puoi essere povero e laido, mica c'è bisogno di essere ricchi per essere, anzi. Senti, quando lo fai il tuo laboratorio a Spoleto? Oggi pomeriggio il primo e domani il secondo. A che ora te lo ricordi? Perché così lo diciamo. Guarda, bisogna andare a guardare sul programma. Noi in genere, insomma, io sto lì dalle 4 in poi, poi dopo va secondo quello che succede. Mi raccomando. Non ho la situazione dell'orario, beh, però certo. Ma so che è una kermesse dove ci si avvicenda, si guarda, si vede. In sostanza, l'importante è che tutti siamo attenti a non buttare le cose, soprattutto quelle da mangiare, perché è veramente un'offesa alla povertà della gente. Assolutamente. Grazie, Giorgione, per essere stato con noi. Buon laboratorio a Spoleto. Un abbraccio grossissimo. Un abbraccio grande. E mi raccomando, cari ascoltatori, che siete nei paraggi dell'Umbria, della Bassa Toscana, dell'Alto Lazio, convergete a Spoleto per la festa di cittadinanza attiva, dove imparerete un sacco di soluzioni interessanti per mettere KO lo spreco a tutti i livelli. E poi ci sarà soprattutto Giorgione col suo laboratorio, c'è anche da ridere, avete capito, perché lui è così, è fatto così. Noi siamo media partner come Radio 24, nel senso che seguiamo questo evento, lo abbiamo appena fatto, e oggi la soluzione degli ascoltatori per mettere KO lo spreco, la più originale, verrà premiata con la guida, la collana delle guide verdi del Touring, in collaborazione con il Sole 24 Ore. Abbiamo un minuto e mezzo, io volevo farti cantare ancora Dario, però in un minuto e mezzo che dobbiamo fare. Io purtroppo faccio canzoni lunghissime, lunghe, giustamente, diciamo, triste, quindi direi di chiudere senza canzone, così a meno che vediamo in bellezza, diciamo due parole sullo spettacolo teatrale che vai portando in giro, e che si chiama Una Società a Responsabilità Limitata, quindi torna il tema del... Sì, diciamo che ho mutuato questa cosa dal diritto commerciale, cercando di giocare ovviamente, come è palese, con la metafora tra la differenza e il racconto della mia infanzia e della mia vita attuale, il passaggio da una società di persone, che è il paese in cui sono nato e cresciuto, a quella che io vedo oggi come una società a responsabilità limitata. Siamo un po' degli irresponsabili, ti viene da ma dire. Ma in realtà gioca proprio, parte dal senso di colpa e dall'idea di trovare un responsabile, quindi è molto ironico in questo senso, cerca un capro espiatorio e poi alla fine lo trova, non svelo il finale, anche se ormai l'ho fatto già altre volte, però l'idea è di giocare proprio sulla domanda più che sulla risposta, sul porsi delle domande più che esercitare. Allora, risposte. Io un po' di date le ho già ricordate: 3 luglio a Soliera, 11 luglio a Bitonto, 16 luglio a Villa Arconati, a Bollate, Milano, poi si va avanti tutta l'estate. Magari ci risentiamo ancora. Grazie, certo, Dario Brunori, grazie a Brunori voi. Sass, per essere stato con noi. Allora, assegniamo il premio di oggi ad Ada, che invita a non fare le pubblicità dove si vogliono rottamare le cose che funzionano ancora, perché è una cosa importante che riguarda da tutti, e insomma Ada ha ragione, non bisogna buttare le cose che funzionano, nello spreco peggiore. Cari ascoltatori, noi ci risentiamo domani 8:30, 11, con me Alessio Maurizi. Carlo Gabardini non ci sarà perché a Benevento, l'avete